Venerdì 21 alle ore 18 alla libreria.input ci sarà la presentazione del volume Environmental Humanities e siamo qui per parlarne con una delle curatrici, Ilaria Bussoni. Ciao Ilaria, benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, grazie. Allora Ilaria, io partirei un po' dal principio, se ti va di raccontarci questo volume e anche magari proprio il titolo Environmental Humanities, questo concetto per chi non lo conoscesse. Dunque, Environmental Humanities, un titolo anche difficile da pronunciare per il numero di accenti tonici che sta su questa parola environmental. In realtà è un termine anglosassone, come spesso accade, si importano termini anglosassoni, qui banalmente per definire un dibattito che si sta svolgendo da alcuni anni all'interno delle scienze umane e delle scienze sociali, quindi appunto le humanities, in relazione alla crisi climatica, alla crisi ambientale, al cosiddetto dibattito sull'antropocene e più in generale a una riflessione sull'impatto e l'attività umana, di tutte le attività umane, quindi l'impatto antropico sul pianeta. Il volume è una raccolta antologica di traduzioni. Si è voluto cominciare a inaugurare questo dibattito proprio facendo una sorta di ricognizione dei contributi più significativi o per noi più significativi nell'ambito di questo nuovo ambito di ricerca, che è appunto un ambito peraltro transdisciplinare che coinvolge tanto la letteratura quanto il pensiero politico, tanto il pensiero ecologico, una riformulazione del pensiero ecologico, quanto la sociologia e la filosofia, chiaramente, quindi sono delle scienze umane in un senso lato e transdisciplinare. E dunque si è voluto raccogliere in un'antologica alcuni testi significativi di questo dibattito che si è svolto prevalentemente tra Gran Bretagna, Stati Uniti e Francia, ma che ha toccato insomma anche altri paesi, chiaramente come il Brasile o la Spagna, e coinvolto anche autori che insegnano o scrivono appunto in più lingue. Questa prima antologica quindi è una sorta di ricognizione generale di questo dibattito. Se vogliamo, ritroviamo in una nuova chiave temi in qualche modo conosciuti, ma l'elemento di novità rispetto appunto a questo ambito che si va definendo non è semplicemente un'interrogazione su che cos'è, appunto come definire l'antropocene, che sappiamo essere un termine che può essere definito come capitalocene, plantasciocene, cthulucene. Il focus appunto cambia e anche diciamo la datazione di questo inizio di un'era geologica appunto dell'umano. In questo caso l'elemento diciamo di novità sta nel fatto che, partire appunto da questi elementi di crisi, quindi la riflessione su che cosa sia oggi una nuova forma, un nuovo modo di pensare la relazione tra l'umano e il resto dei viventi, l'umano e le sue pratiche e il resto del pianeta, ciò che viene proprio messa a critica è l'istanza stessa di sapere e di metodologia della conoscenza delle scienze umane stesse. Quindi non è sufficiente che le scienze umane in qualche modo approfondiscono, portino avanti un discorso di critica su appunto attività industriale, l'attività estrattiva, parassitarismo che in qualche modo le pratiche umane, strade economiche, produttive, cioè insomma il capitalismo ha nei confronti del pianeta. Ciò che è in gioco è anche una riorganizzazione della stessa conoscenza, quindi degli stessi ambiti disciplinari, quindi la stessa divisione tra appunto scienze sociali da un lato ad esempio e scienze dure dall'altro, come appunto biologia o botanica. E dunque Environmental Humanities è un termine che indica un nuovo ambito di ricerca dove gli stessi confini tra le discipline sono in discussione, proprio a partire dall'esigenza di ripensare il vivente sia in termini sociali e politici sia in termini di compatibilità di vita.